America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Tokyo. Mario Platero. Si sono chiuse ieri le riunioni annuali del Fondo Monetario, Banca Mondiale, e si apre invece una settimana chiave per le elezioni americane. Abbiamo visto che il pareggio di giovedì scorso fra Joe Biden e Paul Ryan non ha mosso i sondaggi. Insomma, le elezioni restano per ora aperte. Toccherà al presidente tirare fuori le unghie per poter muovere le medie negli stati chiave, cioè in Ohio, in Florida, in Virginia, in Wisconsin. Ma torniamo all'economia. Le conclusioni di queste riunioni del Fondo Monetario, Banca Mondiale: forte pressione sull'Europa e sugli Stati Uniti. Sull'Europa perché deve cercare di mobilitare il fondo salva stati, creare una stabilizzazione della sua situazione sul debito sovrano. Sugli Stati Uniti perché tagli il suo disavanzo. Ecco, su questo però voglio farvi ascoltare, su questo punto, che poi è il punto della condizionalità, perché se si deve avere accesso a questo fondo salva stati bisogna anche in qualche modo cedere un minimo della sovranità. Sentiamo, vi dicevo, l'amministratore delegato di Banca Intesa, Enrico Cucchiani. Io credo che i paesi debbano essere divisi in due categorie: quelli che ce la possono fare da soli e quelli che invece hanno bisogno del sostegno esterno. Quelli che ce la fanno da soli non si pongono il tema della condizionalità. Quelli che invece non sono in grado di uscire dalla situazione di crisi con i propri mezzi, è giusto che accettino le condizioni poste da chi li deve aiutare. È una, diciamo, una misura di igiene preventiva che assicura anche che il comportamento dopo l'erogazione del finanziamento sia corretto a prescindere da chi sarà al governo. Identificando i paesi in queste categorie di paesi, l'Italia è uno dei paesi che è stato un po' singled out, come uno dei paesi, come la Spagna, che forse dovrebbe pensare a sottoscrivere delle misure di condizionalità anche per dare delle garanzie guardando in avanti. Io credo che i due paesi si trovino in situazioni estremamente diverse. La Spagna, a mio avviso, non ce la fa da sola e quindi deve ricorrere al sostegno esterno. E sempre a mio modesto avviso, prima lo fa meglio è, e quindi dovrà accettare la condizionalità insita nel sostegno stesso. L'Italia ha tutti i mezzi per uscire dalla situazione, che se non è di crisi è comunque critica, con i propri mezzi, e grazie, direi, alla guida illuminata di questo governo, sta già facendo tutte le cose che la condizionalità prevede. Avete sentito, Cucchiani è molto, così, molto favorevole all'utilizzo di questa condizionalità e prudente sull'Italia. Dice: l'Italia non ne ha bisogno, può fare senza, e quindi è sulla linea del presidente Monti. Non lo è un investitore importante come Larry Fink, il quale sottolinea un punto molto importante, cioè che la mobilitazione di questo fondo e la creazione di una condizionalità ha un'importante valenza sistemica e meno una valenza di orgoglio perduta. Dobbiamo chiederci se l'Italia è fra i deboli o no, e di questo, di crescita, di manovra italiana che è in corso in questi giorni, ovviamente di condizionalità, ho parlato anche con il ministro dell'economia Vittorio Grilli. Sentiamo. Buongiorno ministro, siamo a Tokyo, i lavori del Fondo Monetario Internazionale sono finiti, la sensazione, si dice che ci sia un rallentamento che a questo punto riguarda il resto del mondo, ci sarà un problema per l'Europa, per l'Italia che esporta guardando in avanti? Sì, abbiamo preso atto di un rallentamento non solo europeo ma globale. Penso che questa sia anche una spiegazione del perché l'economia italiana nel 2012 abbia rallentato più di quanto avevamo previsto. Ci sono però anche degli elementi positivi, alcune aree del mondo che nel 2012 avevano rallentato, il Sud America e anche la Cina, sembra che stiano riprendendo già dal prossimo anno, e quindi speriamo che l'effetto negativo sull'economia italiana sia già avvenuto e quindi possiamo guardare al 2013 con più ottimismo. Qualcuno dice che noi in fondo siamo un po' in avanti rispetto ad altri che ancora devono prendere delle misure di austerità, è vero? Quello sicuramente, sia l'Italia che l'Europa in generale sta facendo e ha già compiuto un processo di aggiustamento fiscale molto importante che altri paesi e altre aree nel mondo dovranno fare nel futuro. Ecco, abbiamo visto che il governo ha varato un piano per ridurre le aliquote, però poi ha anche ridotto alcune